Eccoci con l'attrice Cristina Pellegrino per parlare della terza edizione, il volume 3 di Ugo a Radio Rock 16 febbraio. Per quanto riguarda questa quest'invenzione, Cristina, intanto ben ritrovata. Ne descriviamo nuovamente parliamo di questa formula, Ugo. Allora, Ugo, diciamo, non ha una formula particolarmente chiusa, nel senso che sono delle serate composte da diversi pezzi che abbiamo stabilito essere lunghi massimo 8 minuti, che parlano di ar degli argomenti più diversi sostanzialmente. Tendenzialmente comici o comunque brillanti, o comunque che abbiano un tipo di visione comunque ironica, sarcastica sul mondo. E attrici e regista sono donne. Sì, sono donne, anche i testi sono tutti di autrici donne. Questa tematica, appunto, secondo me è importante sottolineare non tanto che siamo donne, nel senso che su questo ci siamo abbastanza confrontate, Sì. che spesso come, cioè, se tu vedi qualcosa in cui ci sono 8 uomini, nessuno dice ah, un film al maschile, Sì. uno spettacolo al maschile, a prescindere da quello che si dice, cioè tu vedi 8 uomini in locandina o in qualsiasi posto e non vai a pensare è uno spettacolo al maschile, è un... non so, una cosa al maschile, eccetera. Invece, per quanto riguarda le donne, come ci sono 5 donne da qualche parte, subito scatta, diciamo così, il punto di vista è qualcosa al femminile, si parla di tematiche al femminile, eccetera. E questo invece è quello che vorremmo evitare, in un certo senso. Certo. Mi rendo conto che sembra quasi un paradosso, perché dice, vabbè, però siete effettivamente tutte donne, sì, è vero. Però le donne, diciamo, parlano di tutto, Sì, sì. non parlano solo né di tematiche legate al femminile, né parlano in quanto donne, cioè parlano in quanto persone, spesso, o comunque, cioè spesso, ma non tanto spesso quanto si vorrebbe e quanto vorremmo noi. Certo, anche se no, comunque non è una casualità quella del genere. Non è una casualità, ma soprattutto perché non tanto nel mondo delle attrici, perché comunque le attrici sono molte, Sì, ma nel mondo sì. del, diciamo, della scrittura così, chiaramente ancora la percentuale di donne è più bassa Sì. rispetto a quella di uomini. E quindi il tentativo era quello di far uscire in un certo senso e stimolare la scrittura femminile. Anche su tematiche diverse, quindi diciamo creare dei link anche tra attrici e autrici che non si conoscevano, creare una sorta di polo di aggregazione per far emergere una scrittura femminile, anche che non fosse femminile solo perché appunto scritta da autrici, ma non in quanto femminile, che non fosse legata appunto a temi particolarmente tipici del mondo femminile, che rientrano nel cliché, ecco, Sì. al femminile. E quindi diciamo è un doppio salto mortale, nel senso che sì, è vero che siamo tutte donne, quindi è vero che è stata una scelta di essere tutte donne, ma diciamo la speranza e l'obiettivo è quello di cioè, di sperare che poi questa cosa non venga più notata dall'esterno. Non so Certo, certo. se sono stata Sì. chiara o se si capisce. Sì. Senti, per chi ci ascolta, descrivi una serata tipo di queste prime due edizioni che ci sono state? Una serata tipo, dici di pezzi, che pezzi ci Eh sono? sì, no, come si compone la serata, Come si ecco. compone? La serata si compone di persone che salgono sul palcoscenico, il palcoscenico di dentro Radio Rock, c'è un microfono ad asta oppure un archetto e ognuno, quindi sono sostanzialmente dei pezzi a uno, quindi dei piccoli one woman show, diciamo, Dalle una 21:30, decina. vero? Dalle 21:30 circa. Dalle 21:30 di solito prima dello spettacolo c'è sempre offriamo sempre tipo un aperitivo, insomma una degustazione di cose da bere, da mangiare, varie, Questa volta sarà offerta da Dol, che è di origine laziale, una cooperativa, credo che si appoggia anche al carcere di Re Bibbia. Adesso questa informazione, poi insomma adesso non te la sto dicendo un po' così, dovrei trovare il riferimento preciso. E ogni serata, diciamo a fine serata, l'ultimo pezzo è un pezzo che abbiamo deciso che deve avere come tema Ugo, che può essere qualsiasi cosa. Ugo è l'acronimo di Unidentified Gabbling Object, prendendolo dall'UFO e trasformandolo. E gabbling vuol dire parlare velocemente, parlottare, quindi può, diciamo, in qualche modo racchiudere il concetto di parlare un po' in libertà su vari argomenti. Sì. Senti Cristina, la durata, io sono stata alla seconda, al volume 2, è intorno all'ora e mezza, vero? Sì, massimo un'ora e mezza dura, sì, più o meno, sì, quello. Senti, considerato che siamo alla terza serata, sta assumendo una sua identità? Sta assumendo la sua identità, diciamo che è un lavoro difficile, nel senso che poi ci sono diverse anime dentro, diverse anche estetiche, diverse visioni, quindi siamo tante teste. Anche un po' a rotazione. Un po' a rotazione, ci confrontiamo anche sui testi, eccetera, per trovare una linea che sia il più possibile comune, senza però tarpare, diciamo, le diversità. E quindi ci sono pezzi magari più tipo stand up, ecco, questo può essere interessante, pezzi più in stile stand up. Per esempio, questa volta verrà un'attrice che fa stand up di Milano, viene apposta, si chiama Laura Formenti, oppure pezzi che invece sono più Anche pezzi musicali. anche pezzi musicali, ogni volta c'è un ospite musicale, questa volta ci sarà Giulia Nervi, oppure pezzi che magari sono più simili, più vicini a un monologo teatrale, una via di mezzo, oppure più verso il cabaret, diciamo, questo per dare giusto dei riferimenti, nel senso che lo stile dei vari pezzi non è proprio identico, ognuno può avere un'identità che si avvicina a varie tipologie di spettacoli e di interventi anche di singoli, appunto, tra lo stand-up, il cabaret, il monologo. Tendenzialmente quello che a me piace sarebbe tendere verso una stand-up che sia un po' teatralizzata, però Sì. insomma questo poi è Si la vedrà. mia, diciamo, visione. Senti Cristina, ci dai anche i riferimenti web per saperne di più? Allora, abbiamo una pagina web che si chiama Ugo Unidentified Gabbling Object, tutto attaccato. E per il momento, diciamo, l'unico riferimento fisico sul web è questo, la pagina di Facebook in cui ci sono le informazioni, l'evento, eccetera. Bene, allora ricordiamo Ugo volume 3a Radio Rock a Roma il 16 febbraio. Ti dico i nomi Sì, delle partecipanti. delle partecipanti, questa volta ci saranno, oltre a me, Annalisa di Anticordone, Carmen Barbieri, Giulia Nervi, Laura Formenti, Arianna Dell'Arti, Cristiana Vaccaro, Betta Cianchini e come autrici Veronica Raimo, Nicole Balassone, Francesca Stash, credo di non aver dimenticato nessuno. Benissimo. Spero di no. Ok. Allora Cristina, un abbraccio, in bocca al Grazie lupo e ci si sente presto. mille. Sì, a te, grazie mille. Ciao. Alla prossima.